Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 25 gennaio 2015. Via al primo mondiale rally per auto ibride. Jean Todt, presidente della Federazione Internazionale Automobilistica, lo aveva preannunciato 3 anni fa, alla vigilia dell'80° rally di Monte Carlo, ed era sembrata a molti una battuta ad effetto. E invece, da questo 2015, il Mondiale Rally mette in campo auto mosse da motori ibridi, su sterrati polverosi e percorsi ghiacciati, asfalto o fango. Al via dell'83esima edizione della mitica gara automobilistica su percorso misto organizzata nel Principato, infatti c'erano tutte auto a doppia alimentazione. Ora, per il futuro, si pensa all'elettrico. Fin qui la notizia del 25 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. L'auspicio di Jean Todt, espresso qualche giorno fa, si muove in una direzione che l'industria automobilistica ha già imboccato da tempo, come spiega Mario Poltronieri, commentatore e giornalista, storica voce italiana dell'automobilismo. Secondo le migliori tradizioni della federazione arriva sempre con 10 anni di ritardo. Comunque diciamo che l'idea è valida. Non dimentichiamoci però che l'ibrido non riesce in Italia, ad esempio, e non so in altre parti del mondo, ma credo che ci siano gli stessi problemi, tranne in Giappone, non riesce ad affermarsi, tant'è vero che per prendere un discorso di questi giorni, la chiusura del centro di Milano prevede che le vetture ibride sono escluse solo per quest'anno. L'anno 21 dovrebbero comunque pagare perché utilizzano in parte benzina e quindi sarebbero inquinanti. E mi pare una decisione molto grave perché appunto mortifica una tecnologia che invece, insegna la Toyota dal 1997, ha una funzione reale. Perché appunto io che ho anche una macchina ibrida so che veramente, soprattutto guidata in un certo modo, consuma molto meno e quindi inquina molto meno. L'idea di Todt senza dubbio è valida, però non sono così ottimista, anche perché non dimentichiamoci che c'è sempre il sogno di riuscire ad arrivare alle vetture elettriche. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna-Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.